spenti per la mia strada, affari spenti ovunque vado, affari spenti per questi stili, affari spenti per tutti i finti miti, per tutti i finti miti.